Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, con 51 minuti ancora da attendere vi propongo di farlo insieme, da attendere naturalmente Roma-Inter in scena all'Olimpico, appunto tra 51 minuti esatti, se volete possiamo anche scandire il countdown. Con Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia, tanto vale proporvi di sentire subito i battiti dell'Olimpico. Guglielmo Timpano, buongiorno. Buonasera Carlo, buonasera a tutte le amiche e tutti gli amici all'ascolto. Il fremito dell'Olimpico credo ritorni in cuffia e anche attraverso le radio, le autoradio dei nostri radioascoltatori. È un fremito che si sente, che si vive qui allo stadio. Le strade che insomma circondano lo stadio Olimpico sono congestionate dal traffico da almeno 2 ore a questa parte. Già adesso nell'impianto di Casa Roma e di Casa Lazio, nell'impianto del CONI, saranno presenti un 40-45 mila spettatori, ma si va verso i 70 mila, che significa tutto esaurito. In ogni ordine di posti sold out già da almeno 4 giorni, questo significa che la città avverte questa partita, una sfida che può valere una buona fetta di scudetto, una sfida che la Roma affronterà. Questi rumors e le indiscrezioni che escono dalla sala riunioni di Trigoria, da cui insomma è partito questo input e nella quale si sono ritrovati i giocatori e l'allenatore per il meeting, il briefing finale, si deduce che possa essere questa la formazione. La difesa non c'è dubbio, Risi a sinistra, Cassetti a destra, Juan e Burdizzo centrali. Tra l'altro, delle 8 partite in cui la Roma non ha subito gol in questo campionato, un po' pochine a dire il vero, perché insomma una grande squadra dovrebbe rimanere con la porta illesa un po' più di volte, però di queste 8 partite 6 sono state affrontate con la difesa che vi ho appena letto. Giulio Sergio, ex miglior terzo portiere al mondo, adesso titolare inamovibile, Doni dunque in panchina, Perrotta, Pizarro, De Rossi a centrocampo, ma soprattutto la conferma di Jeremy Menez a ridosso di Vucinic e di Luca Toni. Il bilancio in quella che è una previsione che verrà certamente smentita dai fatti, Carlo. No, ma pare proprio, guarda, pare proprio sia così. Totti in panchina e la conferma di Menez, io vedo anche da... La conferma di Menez è dato certo, ma finché non lo vedo Totti in panchina non ci credo, nel senso, Ranieri potrebbe anche fare una sorpresa dell'ultimissimo minuto, mettere il capitano titolare. Lo ricordiamo che il capitano è ritornato da un infortunio anche contro il Bari, per esempio, e mise subito 3 gol in cascina. È un giocatore che comunque ci ha abituato a giocare anche da fermo, anche nei momenti di massimo splendore fisico. Potrebbe essere questa una grande sorpresa, tenendo però in panchina non Menez ma Luca Toni. Questa è un'ipotesi, la formazione che vi ho delineato prima è molto più di un'ipotesi, è una probabilità. Circolano queste indiscrezioni, ma alcuni pensano che possano essere indiscrezioni che siano state messe in giro proprio per destabilizzare in un certo qual modo. Cioè, pretattica dell'ultimo istante, tu dici, pretattica dell'ultimo istante. Detto questo, insomma, a me sembrerebbe una buona idea quella di far partire il capitano, che è assente da lungo tempo, dalla panchina, anche per poi poter entrare e cambiare la faccia di questa partita, magari, chissà mai. Guglielmo, c'erano dubbi anche in casa Inter sulla presenza di Sneijder, sulla possibile presenza di Pandev, chi gioca tra i due? Il dubbio ancora non è stato del tutto sciolto in chiave Inter. Indiscrezioni e rumors invece dal punto di ritrovo nerazzurro non ci sono giunti. Credo che ci siano buone possibilità di vedere Pandev a ridosso di Eto'o e Milito, ma è altrettanto vero che, come ben sapete anche voi, fino alla fine proverà a mettere in campo Sneijder, che è un giocatore che sposta e non di poco l'ago della bilancia della compagine nerazzurra. In questo momento un po' più Pandev che Sneijder. Un po' più Pandev che Sneijder, un po' più Toni che Totti, dunque dovrebbe essere questa la faccia iniziale di Roma-Inter. Ambiente bello carico, Guglielmo, da peso che la città abbia la febbre, abbia avuto la febbre almeno alta almeno negli ultimi 2 giorni. Sì, beh, devo dire, potete immaginare quello che è accaduto a Roma, con tantissime radio private, il tam-tam delle radio capitoline, che ha cominciato a dare la carica a questi giocatori, che però hanno un abile stratega in panchina. Non si è sbilanciato Ranieri, come sta facendo da almeno due mesi a questa parte, ha messo tutta la pressione addosso all'Inter. In realtà, guardandosi negli occhi, i giocatori all'interno dello spogliatoio e a Trigoria sanno benissimo che questa è un'occasione probabilmente irripetibile, e anche se Ranieri ha parlato di un pareggio che terrebbe in corsa la Roma, credo che la mossa Menez più due punte sia lì a significare che proverà a vincerla in tutti i modi questa partita. Grazie Guglielmo Timpano, grazie. Dunque, ci ha portato all'Olimpico per un primo assaggio, un primo preview di questo match. Adesso, insomma, mi pare sia pressoché ufficiale, salvo pretattica, salvo sorpresissima dell'ultima ora. Insomma, Menez giocherà insieme a Vucinic, intoccabile naturalmente, a Toni. Totti partirà dalla panchina. Per quanto riguarda l'Inter, c'è ancora questo minimo dubbio tra Sneijder e Pandev, però la mia impressione, anche se non è ufficiale, è che a Sneijder Mourinho non rinuncerà in una gara come questa. Con ogni probabilità Zanetti arretrerà sulla linea dei difensori, per il resto, e Stankovic andrà in campo, per il resto tutto fatto e tutto scritto. Chi vince secondo voi? Provate a dirmelo. 800 24 00 24, numero verde, tanto insomma pronostico dell'ultima ora, messaggi sms 349 238 6666. Chi vince, naturalmente, perché? Se non è troppo facile mettere 1x2. In palio non c'è niente, ma intanto il banco comincia a raccogliere le giocate, le vostre giocate virtuali. 3-0 per l'Inter secondo Claudio D'Aleco. Spero vinca la Roma, l'Inter mi sta troppo antipatica. Dario da Vicenza: sì, però pare un po' più circostanziato, caro Dario, ci vorrebbe. 800 24 00 24, numero verde per le vostre telefonate. Luigi Ferraiolo, inviato del Corriere dello Sport. Ciao Luigi, grazie. Ciao, figurati. Penso un po' maluccio perché qui c'è già un bel frastuono. Immagino, sono i rumori dell'Olimpico. Come detto, dunque, mi pare sia pressoché ufficiale. I rumori del nemico. Ah sì, sono i rumori del nemico, che sentirà bene Mourinho il muto ormai. Certo. Senti, l'Inter sotto pressione, la considerazione che mi viene da fare è questa: l'Inter sotto pressione fin qui negli ultimi 4 anni ha sempre dato grandi risposte. Oggi la notizia sarebbe il contrario. Ma guarda, la penso anch'io così. Io penso che l'Inter farà una grande partita, perché sicuramente ha buttato e ha lasciato diversi punti nelle ultime domeniche, però quando ci sono quelle partite chiave mi sembra che ritrovi tutta non solo la concentrazione, ma tutte le sue migliori virtù. Quindi io non mi aspetto certo un Inter distratta dalla Champions o con altri pensieri. Credo che oggi voglia dare una prova di forza anche per mettere a tacere la Roma, mentre penso anche che la Roma debba fare una partita intelligente proprio rispettando l'Inter, e secondo me pensando anche che con un pareggio la vita continua, ecco. Poi l'Inter avrà partite difficili, avrà la Champions e la Roma avrà solo il campionato, quindi anche un pareggio secondo me per la Roma non sarebbe la fine del sogno. Potrebbe pesare l'esame di Russo di mercoledì secondo te? Ti ripeto, secondo me no, può pesare dopo, cioè nella partita successiva, perché sì, tu ti scarichi molto, ed è già successo, penso. Ma io credo che stasera in questo stadio, contro la Roma che comunque ha insomma il suo appeal, è una partita che può decidere, perché se oggi vincesse deciderebbe il campionato. Io penso che l'Inter stia pensando solo a questo e non ai russi. D'accordo, come fanno le grandi squadre, giustamente. Certo. Grande merito della Roma quello di essere riuscita a reinventarsi in corsa, grande merito di Claudio Ranieri, perché non è facile, non è facile, la Juventus insegna. No, ma sicuramente, guarda, se non fosse offensivo bisognerebbe dire che la Roma ha già vinto il suo scudetto, però magari dire questo è un po' trattarla da poveretta, no? Certo. Però ha fatto una stagione straordinaria, comunque finisca, è partita malissimo, ha cambiato allenatore, e devo dire che l'impronta di Ranieri su questa stagione della Roma è molto molto forte, non tanto nella bellezza del gioco, credo che la Roma di Spalletti resti almeno per ora inarrivabile. Però sul piano della compattezza, dell'armonia che ha saputo ricreare, della capacità di fare risultato, di fare punti, di essere insomma una squadra sempre o quasi sempre all'altezza, sotto questo aspetto Ranieri è stato molto bravo e penso che forse ora saranno convinti anche a Torino e quelli della Juve. Tu cosa dici? Senti Luigi, un'altra impressione che ho è che la Roma sia stata molto brava, un altro merito della Roma, sia stata molto brava a tenere il passo in un momento di flessione che ha avuto, perché non ha vissuto un febbraio brillantissimo. Credo che il momento di flessione sia finito con quella strana partita di Livorno. Da lì in poi ho visto una Roma in ripresa, una Roma che arriva giusta a questa partita, col passo giusto a questa partita. Sì, ma sicuramente la Roma ha avuto una piccola flessione, ma è una squadra che fa 20 risultati consecutivi, positivi, di cui credo 16 vittorie. Insomma, ha dato già l'anima. E ti dico di più, ho l'impressione che ancora ci sia una piccola pressione, la sta mascherando bene, perché ha ritrovato, quando meno forse se l'aspettasse, ha ritrovato Menez, che finora era stato zero per questa squadra, sì. E invece nelle ultime due partite, e fa benissimo Ranieri a confermarlo anche oggi, perché è un ragazzo pieno di talento ma indolente, di quelli che tu vorresti prendere a calci nel sedere quando lo vedi in campo. E ora invece è un momento felice e ha mascherato qualche lacuna della Roma, poi ha recuperato Toni, che comunque è uno, no, il peso si sente, si avverte, certo. E quindi con il recupero di questi due giocatori e il prossimo di Totti ha mascherato una pressione del gruppo complessiva che ci sta tutta. Mi sembra scelta di buon senso. Totti in panchina è ormai ufficiale, io credo, anche se non so se sono stati distribuiti foglietti con le formazioni ancora, però Menez in campo appunto, Toni e Vucinic, che sono Vucinic intoccabile, ma Toni anche in questo momento, mi sembra un'idea saggia quella di far partire il capitano dalla panchina. Ma voglio dire, in questo Ranieri sta dando prova di grande polso, fermezza, cioè lui tratta più o meno tutti allo stesso modo, anche se Totti è Totti e non è certo Cerci, però ecco, lui manda in campo chi sta meglio, chi è più pronto, ed è chiaro che far giocare Totti all'inizio sarebbe stato secondo me un errore, perché un giocatore che non gioca una partita da 45 giorni, per quanto possa star bene fisicamente, noi tutti ce l'auguriamo, insomma non può essere prontissimo per una partita come questa. Se fosse una partita di transizione lo capirei, e invece lui lo porta in panchina e magari nell'ultima mezz'ora, se è una carta disperata o se comunque la partita gli gira bene, può, certo, diventare anche un'arma in più, ma partire con lui sarebbe stato sciocco. Assolutamente. Luigi, per chiudere, il Milan in questo momento è davanti alla TV, ma la mia sensazione è che il treno per il Milan sia già passato e i rossoneri non hanno avuto la forza, le gambe per saltarci sopra. La mia sensazione è che in questo momento sia la Roma ad essersi costruita la sua grande occasione e a provare a viverla fino in fondo. Ma io credo sia l'impressione un po' di tutti, al di là dell'esito di stasera. Credo che il Milan, insomma, non abbia più gamba, è sempre stata una squadra che ha vissuto sugli eccessi, magari gli eccessi di bellezza, ma senza degli equilibri consolidati. Mi sembra una squadra che ogni partita non sai che succede. Sotto questo aspetto la Roma ha più continuità, e oggi, se dovessi dirlo, poi per carità sbaglierò, credo che se c'è, ammesso che ci sia, una rivale ancora dell'Inter, questa può essere solo la Roma. Assolutamente. Grazie Luigi, buona partita, buon lavoro. Saluto a tutti, ciao. Grazie davvero Luigi Ferraiolo, firma importante del Corriere dello Sport. Abbiamo sentito in tutti i sensi e in tutti i modi i battiti dell'Olimpico, i battiti di questa partita. Allora, vi ripeto, Totti in panchina, Snyder in campo, gioca Wesley Snyder, dietro ovviamente a Milito e Eto'o, Balotelli invece, come sapete, non c'è e chissà se sarà davanti alla TV. Immagino di sì. Ah, su Balotelli voglio leggervi una cosa. Il finale dell'editoriale scritto oggi da Franco Arturi sulla Gazzetta dello Sport. Scrive Franco Arturi, parole che vi riporto perché insomma sintetizzano anche il mio pensiero. Mancherà Balotelli, scrive Franco Arturi, passato in un mese dal rango di miglior calciatore italiano, parentesi, ne avreste un altro da proporre nel ruolo al momento? Passato dal rango di miglior calciatore italiano a quello di protagonista di discussioni su Facebook. Io credo che l'ombra di Balotelli si sentirà su questa partita, e soprattutto in casa, nel caso in cui dall'Olimpico venga fuori la notizia a sorpresa, che è quella che ho detto all'inizio, cioè di un Inter che per la prima volta da quattro stagioni a questa parte non riesce a rispondere presente quando è con le spalle al muro, nel momento in cui le viene messa pressione addosso nel momento in cui viene messa alle strette. Ebbene, in quel caso l'ombra di Balotelli credo possa diventare piuttosto pesante anche sull'immediato futuro dell'Inter, della stagione dell'Inter. Io comincio a raccogliere voci di virtuali scommettitori. Come finirà questa partita? Luca da Milano, poi Mario da Verona, 800 24 00 24, numero verde. Luca, buongiorno. Buonasera a tutti. Salve, dica. Sulla carta il confronto non si può neanche fare, perché chiaramente l'Inter vince tutti i confronti sugli uno contro uno, insomma. Però a livello di collettivo, secondo me Ranieri ha costruito una gran bella squadra, nel vero senso della parola. Molto solida, e dandole quel pizzico di cinismo dovuto anche a ragioni strutturali, perché un attaccante come Toni Spalletti non ce l'ha mai avuto. Una Roma magari meno bella ma più pratica rispetto a quella di Spalletti, che all'Inter arrivò vicino, come le ricorderà. Esatto. Tra l'altro io sono interista, quindi è ovvio che spero che vinca l'Inter, però devo ammettere che la Roma è sicuramente la squadra che più seriamente si presenta come pretendente a questo successo, a questo campionato. Quindi io chiaramente, per questioni di fede, do la vittoria all'Inter, ma la vittoria della Roma comunque non è molto distante da quello che potrebbe essere la realtà, in fin dei conti. Quindi 1-2. 1-2. Il pareggio non servirebbe a nessuno, secondo me. Beh, insomma, servirebbe alla Roma per rimanere in corsa e tenere acceso il fuoco. È chiaro che una vittoria dell'Inter, al di là del gioco numerico della classifica, al di là dei punti di distacco, che diventerebbero 4, peserebbe molto, perché darebbe un messaggio molto preciso alla Roma stessa, al Milan: campionato finito, giù la Clare, quando provate ad attaccarci, a venirci vicini, noi rispondiamo in questo modo, dovesse vincere l'Inter. Grazie Luca. Mario Verona, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Zenta. Senti, io premetto, sono simpatizzante milanista, ecco, quindi il discorso che faccio va tenuto conto questo. Sì. Quest'anno a me sembra che l'Inter tutto sommato abbia dimostrato che nei momenti di pressione abbia sempre risposto alla grande. Certo. Vedi i due derby col Milan, vedi la partita in Champions, quindi io ho purtroppo l'impressione che anche stasera, insomma, aggiungerei Mario, se mi permette, anche l'ultima risposta che è arrivata da Udine, quella partita con l'Udinese che arrivava alla vigilia del Chelsea, quindi in un momento molto delicato, le altre si avvicinano, l'Inter è in difficoltà, va a Udine senza un mucchio di titolari perché era la partita immediatamente successiva a quel manicomio che era stato Inter-Sampdoria, e lì diede una grande risposta. Un'altra me l'aspetto questa sera, però ripeto, la notizia sarebbe quella contraria. Prego Mario. Sì no, anche io poi sportivamente uno scudetto alla Roma per me sarebbe l'ideale, perché andrebbe a coronare il gioco migliore espresso finora, ecco. Sì, certo. Poi ecco, da milanista mi verrebbe di fare complimenti a Galliani, perché ha preso un giovanissimo Yepes che sicuramente nei prossimi anni sistemerà la difesa del Milan. Come ha detto Gene Gnocchi l'altro giorno sulla Gazzetta, gli hanno dato una brutta notizia a questo giocatore, perché vista l'età giocherà nelle giovanili probabilmente del Milan. Ecco, sì, quindi prendiamo la ridere. Molto futuribile. Ma la politica del Milan, al di là del prenderla sul ridere, che è la maniera migliore, la politica del Milan è questa, insomma. L'ingaggio prossimo venturo di Yepes non fa altro che inserirsi nel solco già tracciato l'anno scorso. Il Milan, questa proprietà, non ha più la necessità o la voglia di investire pesanti somme nel Milan, e l'ingaggio di Yepes lo dimostra, come dimostrava l'ingaggio di Onyu, l'ingaggio di il ritorno di Beckham, mossa che non ha moltissimo di calcistico, al di là della serietà professionale che Beckham ha, del carisma che Beckham è riuscito a portare al Milan. Però questa proprietà di investire nel Milan non ne ha più, ripeto, la voglia o forse anche la necessità. Davide Pisa, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ho sentito che tutti danno per favoriti l'Inter, no? Perché sicuramente è la più attrezzata. però nessuno ha parlato di quelli che è il dodicesimo uomo, cioè secondo me la curva della Roma è quella che può e oggi sì più che mai difficoltà. oggi più che mai è anche vero che insomma soffia nelle vele della Roma, però mette anche tanta pressione addosso, io credo, l'ambiente giallorosso in questi giorni, l'ambiente romano in questi giorni, non soltanto la curva. Poi Davide? Ma e poi secondo me il Milan non c'ha i giocatori adatti per portare a termine un campionato sotto la pressione di essere la prima classifica, cioè di essere la lepre e gli altri. Ma più che altro Davide, il Milan non ha i giocatori adatti per arrivare al primato in classifica, lo ha dimostrato, perché quando ha avuto la sua chance domenica scorsa, pareggio in casa con il Napoli, che peraltro in grandissima ripresa, come ha dimostrato la partita contro l'inesistente Juventus di questi tempi, e poi la sconfitta di Parma contro una squadra che invece non aveva molto da dire o da chiedere di nuovo a questo campionato. Proprio l'approccio e l'atteggiamento del Milan è quello di una squadra che ha finito la benzina. Domani giocherà contro la Lazio, che ha il coltello tra i denti perché insegue la salvezza, che è in ripresa, come ha dimostrato più della gara di Cagliari, quella di mercoledì con il Siena. Il Milano non avrà Pirlo, come sapete, non avrà Ronaldinho, non avrà tutti i vari lungodegenti, quindi squadra in totale emergenza. Non sono così certo che il Milan domani sera riuscirà a fare i tre punti. Ci fermiamo un attimo, ma poi riprendiamo tutte le discussioni. Vorrei parlare anche delle dichiarazioni di oggi, molto importanti, di Prandelli. Su un fronte ieri della Valle ha detto: dichiari pubblicamente che non andrà alla Juventus. Oggi Prandelli ha risposto in modo molto deciso. Poi c'è stato Berlusconi, ieri un po' dubbioso sul futuro rossonero di Leonardo, e sentiremo cosa ha risposto oggi Leonardo. Confermo dunque, squadre che si stanno scaldando. Totti va in panchina, gioca Menez con Vucinic e Toni da una parte, dall'altra gioca Sneijder dietro Milito ed Eto'o, e mentre Zanetti viene arretrato sulla linea difensiva e Stankovic va nel centrocampo disegnato da Mourinho. Vi do anche i risultati di Serie B che sono ora finali. Brescia, Albino Leffe Brescia, scusate, 1-1. Ascoli batte Empoli 2-1. Città della Sassuolo 0-0. Crotone batte Salernitana 2-0. Frosinone ancora Ancona 1-1. Grosseto Cesena 1-1. Lecce batte Gallipoli nel derby 1-0. Mantova batte Vicenza 1-0. Il Piacenza vince 1-0 a Modena. Triestina batte Padova 2-1. Classifica: Lecce 58, Cesena 52, Sassuolo 51, Brescia Grosseto 49. Io vorrei, mentre continuo a leggere i vostri messaggi, ad esempio Alberto da Pescara: io sono milanista, dico che vince l'Inter, ma di solito sbaglio sempre i pronostici. Alberto, però così non vale, dice: sono milanista, vince l'Inter, ma di solito sbaglio i pronostici. Troppa attesa a Roma, l'Inter se la mangi, i precedenti all'Olimpico sono significativi. Gibril da Legnano: la Roma ha il dovere di provare a vincere, non è vero, come scrive Gianni Mura oggi su Repubblica, che la Roma ha già vinto il suo scudetto. Comunque segno 2, questo pronostico di un altro ascoltatore anonimo. La Roma più chiarezza e unità di intenti, l'Inter troppa polemica e carne al fuoco, scrive ancora un altro ascoltatore. Vince l'Inter perché è più forte, più abituata a partite e pressioni di questo tipo, considerazione che condivido, questa di Paolo da Prato. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire. Vi dicevo prima delle risposte che sono arrivate oggi in conferenza stampa, risposte molto incisive di Prandelli e di Leonardo ai loro datori di lavoro. Partiamo dalla sponda viola. C'è ieri, come sapete, Diego Della Valle. Prandelli dichiari pubblicamente che non andrà alla Juventus. Prandelli oggi, conferenza stampa. Il dottor Diego Della Valle è un vincente come me, quindi molto probabilmente forse abbiamo capito che questo sogno potrebbe essere rimandato, non so come dire, quindi c'è stato forse questo imbarazzo. Chiaro che, leggendo bene le parole, suonano come un licenziamento, da come ho letto io. Allora vorrei capire se c'è la volontà veramente di continuare assieme, o se è una provocazione forte. Io non ho preso contatti con nessuno, non ho firmato con nessuna squadra, io sono allenatore della Fiorentina, e anche in questi mesi qua abbiamo tanti obiettivi da raggiungere e vorrei mantenere la concentrazione giusta. Vorrei mantenere la determinazione giusta. Questo era Prandelli, dunque ha detto le parole della Valle suonano come un licenziamento. Mi sa che il rapporto tra Prandelli e la Viola è al capolinea e che si tratterà di aspettare la fine della stagione. Berlusconi ieri, Leonardo, spero che Leonardo rimanga al Milan. Qualche volta non c'è unità di vedute con l'allenatore, ma non so, lui è l'allenatore del Milan, io non sono neanche il presidente, ha detto ieri Berlusconi. Leonardo, oggi. Della stessa intervista che ha fatto a Sky TG24, sono uscite 10 interpretazioni. Io dico, ma qual è? No? Perché io sinceramente non l'ho sentito, perché dopo non l'ho visto, ero fuori, mi ha riferito, e io ho visto 10 interpretazioni della stessa intervista. Quindi, allora, le mie parole ci saranno altri 10. Pensa che stiamo qua a discutere del surreale. A questo punto io devo discutere le cose reali. Le cose reali quali sono? Io sono qui concentrato su 8 partite perché credo che abbiamo fatto tante cose e queste cose vanno difese, e il modo migliore di difendere tutto quello che abbiamo fatto con tanta difficoltà è far bene queste 8 partite. Certo, colmo sarebbe licenziare Leonardo per carenza di risultati. Questo sarebbe veramente il colmo, ma non penso, insomma. Intanto proviamo a capire come andranno in campo domani la Fiorentina, il Milan, ma anche la Juventus. Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Come vanno in campo? Partiamo dalla Fiorentina. Fiorentina che ha recuperato Gilardino, che quindi partirà dal primo minuto con Jovetic. La buona notizia per Prandelli è che quasi certamente può considerare recuperato anche Vargas al 100%, e quindi con Vargas in campo al posto di Gobbi potrebbe presentare contro l'Udinese una Fiorentina un po' più offensiva del 4-4-2, quindi possiamo immaginarla con 4 difensori, 3 centrocampisti, e c'è il ritorno di Cristiano Zanetti, e poi con Jovetic e Vargas alle spalle di Gilardino, contro un Udinese tra l'altro che ha qualche problema in più di formazione, perché Floro Flores è fermo a causa di un'influenza, non è nemmeno stato convocato. Marino giocherà comunque con il tridente, ma un tridente a questo punto è meno offensivo, perché insieme a Di Natale ci saranno Sanchez e soprattutto Pepe, quest'ultimo un giocatore che è un po' più votato al sacrificio piuttosto che alla fase offensiva. Quindi sarà un Udinese che scende a Firenze un po' più coperta contro una Fiorentina che, recuperato Vargas, si avvicina un po' più a quello che è stato il disegno tattico visto in questa stagione, anche se l'assenza di Marchionni impedisce di giocare con le tre mezze punte dietro a Gilardino. Quasi banale invece dire sul Milan che gioca chi sta bene e non è squalificato. Arrivano sì. A 11? Ma guarda, arrivano a 11, anche se in realtà ne hanno perso un altro, che è Abbiati, fermato dalla tendinite. Tendinite che è un po' l'eredità lasciata da quasi un anno di inattività, quindi Abbiati non si è infortunato, semplicemente non è ancora in grado di reggere una serie di impegni ravvicinati e continui, quindi si ferma per un turno, al suo posto torna Dida, e poi il resto della formazione lo dettano le emergenze, perché l'elenco degli squalificati è lunghissimo. Davanti giocheranno Seedorf, Inzaghi e Huntelaar, perché manca Ronaldinho. A centrocampo il regista lo farà Flamini al posto di Pirlo, con ai suoi fianchi Gattuso e Ambrosini. Dietro le scelte sono obbligate, perché c'è Favalli con Thiago Silva e c'è Antonini a sinistra. A destra dovrebbe giocare Abate. Attenzione perché potrebbe anche grandinare dopo aver piovuto sul Milan, perché l'elenco dei diffidati è altrettanto lungo, perché c'è Flamini, c'è Seedorf e c'è Thiago Silva, quindi oltre che lungo è anche pesante. Il Milan rischia di andare incontro a qualche altra assenza di peso in vista della trasferta di Cagliari di sabato prossimo. E poi arrivare a 11 sarebbe complicato sul serio. Sì, ti dico che la Lazio, diciamo tutto quello che riguarda il posticipo di domani sera, oggi Rey ha provato Rocchi e Floccheri come coppia d'attacco. In realtà Floccheri, che è stato convocato, ovviamente non è nelle migliori condizioni, quindi in realtà potrebbe partire dalla panchina facendo spazio a Zarate. Giovanni, la Juventus, anzi sentiamo prima Zaccheroni che cosa ha detto oggi. È il momento chiaramente più difficile nella gestione. Zaccheroni, sentiamolo. Ma io sono contento che siano usciti da San Paolo delusi, mi sarei preoccupato se fossero usciti sorridenti. Poi, visto che eravamo a Napoli, deve passare la nottata, no? Domani è un altro giorno, si arriva con lo sguardo alto e si affrontano le problematiche del giorno dopo. Questo nella vita di tutti i giorni, questo nel calcio, l'ho detto anche ai giocatori ieri, questo nella vita di tutti i giorni, questo nel calcio. Calcio fa parte della vita, e quindi hai dei problemi, li risolvi e vai avanti. E cosa può dire povera Stella Zaccheroni? Giovanni, chi gioca? Beh, oggi oggi, al contrario di Leonardo Zaccheroni, dal punto di vista delle notizie che vengono dall'infermeria e dintorni, può invece sorridere, perché l'infermeria gli restituisce Buffon e le grottaglie, poi da vedere se Buffon partirà dal primo minuto, lascerà spazio ancora per una domenica a Manninger. In passato, anche l'anno scorso, Buffon ha sempre preferito magari attendere una settimana più in più prima di rientrare da titolare dal primo minuto, per essere però sicuro di evitare ogni ricaduta. Sì. Quindi noi diamo ancora Manninger titolare, però la realtà è che Buffon si è allenato regolarmente, ha detto Zaccheroni, ed è disponibile. Così come torna disponibile Sissoko, che è rientrato 36 ore fa dalla trasferta per un lutto a Parigi, è disponibile, quindi dovrebbe tornare sulla linea della mediana insieme a Felipe Melo e Marchisio. Davanti si accomoda in panchina Mauri, che andrà a sedersi vicino a Cannavaro, cattive notizie queste per Lippi. Dovrebbe giocare il tridente Diego dietro a Trezeguet e Del Piero. L'Atalanta va a Torino con qualche problemino di formazione. L'ultimo di oggi è che anche Guarente è in dubbio, perché non sta benissimo e rischia di non essere disponibile. Perfetto, grazie Giovanni, buona partita. Grazie a te. L'interista medio va quasi mai allo stadio, è al massimo tripudio, gioisce nel suo studio. Lo Juventino di Torino è una specie quasi in estinzione, mentre il vecchio romanista che festeggia lo scudetto non si accorge che la figlia va col suo laziale a letto. Questo paese che non è lavoro, soldi e sobrietà. Dunque, dato che vi voglio bene, in fondo anche se non sempre andiamo d'accordo, ho deciso di farvi distemperare un po' la tensione, vale soprattutto per interisti e romanisti, alleggerire la tensione provando a buttarli in musica. Questo tra l'altro è Francesco Baccini, il cui nuovo CD che si intitola Ci devi fare un gol, è in vendita da oggi. CD attraverso il calcio, lettura della vita italiana attraverso il calcio, che non voglio di dire per un tifosone come Francesco Baccini. Ovviamente la sua squadra non è né l'Inter né la Roma, è il Genoa. A questo proposito, Marta Cagnola lo ha intervistato proprio sull'argomento, e allora sentiamolo. Io, che sono uno che gioca sempre in attacco, perché il mio peggior nemico è la noia, quindi devo sempre fare qualcosa, e a volte sbaglio anche, ma lo faccio in buona fede. È chiaro che quando giochi sempre in attacco prendi anche dei gol. L'importante, come dico, è farne uno in più e vincere. Sono genovese, non ce la facciamo. I genovesi abbiamo un DNA che è fatto male, probabilmente perché 500 anni fa eravamo già una repubblica, quindi a Genova non è mai arrivato Lorenzo il Magnifico e diceva tutti là, eravamo già in 100 che dicevano allora cosa si fa? Se arriva uno che dice tutti là, lo guardiamo e diciamo dove? Dici Genova, io tolgo una V e dico Genoa, sì. Anche nel calcio. Ma anche nel calcio, stare col Genoa è un'appartenenza a qualche cosa di perdente fondamentalmente, e quindi quando il Genoa vince è come una rivincita del disgraziato. Cioè, quando il Genoa batte la Juventus o batte l'Inter o batte la Roma o batte, cioè il Genoa non è una squadra che è nella stanza dei bottoni, anzi è una squadra che, se tu fai caso, non so se siamo arrivati quinti quest'anno, comunque stiamo lottando ancora per la Champions, tu apri la Gazzetta, non ne parlano mai del Genoa, come se non esistessimo. Mi ricordo quando c'era Inter Genoa, praticamente c'erano tre pagine che parlavano dell'Inter che giocava contro qualcuno, che eravamo noi. Quindi il fatto poi di riuscire a vedere è come veramente la vittoria del debole che batte il forte, no? Quindi un sogno, e quindi per noi genoani è proprio questa, è una malattia, va oltre il calcio. Ci devi fare un gol, il calcio però è una metafora. Assolutamente, senso. Chiaramente è una metafora per parlare d'altro. Questa canzone, come poi di solito mi succede, mi è piovuta addosso, non so, dallo Spirito Santo, perché così avevo intenzione di scrivere qualcosa che appunto fotografasse questo paese che ha miliardi di problemi. Non c'è un giudizio nella canzone, vedo un paese battuto, cioè la gente si sente, non spera neanche più. Cioè la cosa drammatica che vedo nelle nuove generazioni, che non hanno neanche un sogno davanti. Cioè la mia generazione aveva qualche sogno da inseguire, qui si vive, si galleggia in un presente fatto di punti di domanda enormi. Ho cercato a farlo in quest'Italia che non ha nemmeno i soldi per caca. Francesco Baccini questo, signore, ma adesso l'intervallo è finito, è suonata la campana, perché tra 9 minuti c'è Roma-Inter e tra poco vi leggo le formazioni ufficiali, che però insomma è un'ora che le ripeto, e quindi lo farò a beneficio di quelli che si sono messi soltanto ora in ascolto, come dicono quelli bravi. Intanto voglio parlare d'altro prima di darvi in chiusura le formazioni di Roma-Inter. Vi do un'altra formazione: Vettel, Webber, Alonso, Button, Massa, Rosberg, quarta fila Schumi, Schumacher, Barrichello, Kubica, Sutil. Così si parte domani mattina, ore 8 italiane, prendete note, puntate la sveglia, in Australia. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti. Red Bull velocissime, vediamo se sono anche meno fragili. Che la Ferrari è più affidabile e la Red Bull è più veloce, quindi si tratta, già questo è un duello interessante. Poi c'è, diciamo, il gossip sulla discussione che Schumi ha avuto con Alonso a proposito del fatto che ricordo le immagini, Mario, magari qualcuno non lo sa, al di là della griglia di partenza, subito dopo le prove Schumacher fa da Alonso il classico gesto, ma che cosa combini? Poi va lì, si parlottano, quindi Schumacher va di qui e di là a informarsi a protestare, a alzare cartellini. Beh, e comunque sarà una gara senza dubbio interessante, perché tutti pronosticano l'ingresso di vari safety car, che sarebbe come dire di vari incidenti. Io mi auguro invece che non succeda, che si riesca ad avere ancora meglio la valutazione di qual è attualmente la situazione delle vetture, perché le McLaren e le Mercedes soprattutto non hanno ancora recuperato il gap rispetto alle due squadre di testa, la Ferrari che guida col primo e secondo posto della prima gara, e quindi la Red Bull che vuol dimostrare che il Vettel, se non avesse avuto quel guasto, sarebbe riuscito a vincere ovviamente. E quindi diciamo che il motivo vero è riuscire a capire che cosa sta per succedere. Nella lontananza si sentono però i rumors a proposito di possibili modifiche regolamentari se anche questa corsa dovesse essere, ti ricordi che ne abbiamo parlato l'altro ieri, un po' noiosa. Io credo che non lo sarà, almeno per chi è appassionato, però è chiaro che se fosse vero quello che Alonso ha detto il primo giorno e ha smentito il giorno dopo, e cioè basta la qualifica e la partenza e poi la corsa non succede più. Però vediamo le Red Bull, perché se tengono fino in fondo il duello con le Ferrari rischia di essere, soprattutto con Alonso, rischia di essere abbastanza eccitante, no Mario? Beh, Alonso Alonso è uno scalino sopra secondo me attualmente. Vettel è sicuramente il concorrente più agguerrito ed è ancora il giovane esuberante che vuole affermarsi. Notiamo comunque che gli addetti ai lavori lo scorso anno, capo in testa Ecclestone, avevano pronosticato che quest'anno sarebbe stato l'anno di Vettel e della Red Bull. Speriamo che non sia così. Senti, ma per chiudere, Mario, Schumacher, questo suo primo confronto, diciamo così, con la Ferrari, non è che il ragazzo comincia a dare qualche segno di nervosismo? Perché? Perché insomma anche domani parte con una posizione quarta fila, con il settimo tempo, la prima gara era stata assolutamente incolore, insomma deve cominciare a farci vedere qualcosa, no? Beh sì, senza dubbio, però bisogna dargli un po' di tempo, perché la macchina è così diversa da quella che lui guidava, che è chiaro, diciamo che le modifiche regolamentari non lo hanno favorito quest'anno, quindi ha già questo problema di adattare la sua guida alla vettura e di non poter guidare come guidava una volta. Però la grinta c'è, perché questo diciamo andare al box a discutere con Alonso mi ricorda quando cercò di fare a pugni con Coulthard quando lo tamponò nel Gran Premio del Belgio. Quindi diciamo che il carattere di Schumi sta venendo fuori comunque. Mario, grazie, ci sentiamo domani pomeriggio. Ok, a tutti, buon divertimento. Grazie a Mario Poltronieri, domani pomeriggio dalle 5 alle 7 saremo qui, naturalmente, come ogni domenica, per parlare e di quanto stiamo per vedere tra 5 minuti e 8 secondi, per essere precisi. Cioè di Roma-Inter, c'è anche Palermo-Bologna questa sera che è importante per la testa e per la coda. Le gare del pomeriggio, il Gran Premio, insomma, un sacco di cose da raccontarci abbiamo domani. Io intanto vi racconto, prima di chiudere, le formazioni ufficiali di Roma e Inter. Per la Roma, Julio Sergio in porta, linea difensiva con Cassetti, Juan Burdisso e Rise, centrocampo con Perrotta, Pizzarro, De Rossi e poi davanti Menez, Toni e Vucinic. Francesco Totti va in panchina insieme a Doni Mexes, Tonetto, Brighi, Baptiste e Taddei. Per l'Inter gioca Julio Cesar, davanti a lui Maicon, Lucio, Samuel e Zanetti, quindi a centrocampo Stankovic, Cambiasso, Thiago e Motta, Snyder alle spalle di Milito e di Samuel Eto'o, panchina Toldo, Cordoba, Materazzi, Chivu, Muntari, Quaresma e Goran Pandev. Questo è tutto, ci sentiamo domani pomeriggio, grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Buona partita a tutti.